Capitolo 39. Münster, 1 settembre 1534. Appare lugubre dietro la collina. Il vento freddo ci butta in faccia la pioggia, costringendoci a stringere gli occhi. Distingo la sagoma nera nella piana, gli argini della A, la linea delle mura, le lanterne delle sentinelle, uniche stelle, in una notte da lupi. Sprono i cavalli all'ultimo sforzo, fradici, stremati. Adrianson, con l'altro carro, mi segue dappresso. Ce l'abbiamo fatta. Le ruote sollevano il pantano del sentiero. Procediamo lenti, sempre più vicini alla meta. Più a nord scorgo una fila nera di fortificazioni. I terrapieni di Von Waldeck si sono trasformati in una barriera insormontabile che chiude gli accessi e le vie di fuga. «C'è qualcosa che non va!» La voce del maniscalco si perde nella pioggia. Ha ragione. Una strana angoscia mi attanaglia lo stomaco. Una sensazione letale, di sventura. I campanili, Gert! Le torri! Che fine hanno fatto? Ecco cosa manca. La città è piatta. E i cannoni del vescovo non possono arrivare così lontano e così in alto. Dove sono finiti i campanili? Non è il gelo della notte che mi fa scivolare i brividi nelle membra. Una mano invisibile mi stringe più forte l'interiore. Ci facciamo riconoscere dalle sentinelle della Lüdgeritur. Non conosco nessuno dei guardiani. Oh sì, forse uno. Si direbbe il ciabattino Hansel, canuto, decrepito. Hansel, sei tu? Gli occhi sfuggenti di un colpevole. Bentornato, capitano. Una pacca sulla spalla. Che diavolo è successo alle torri di Münster? Faccia scura. Lo sguardo resta basso. Nessuna risposta. Gli stringo il braccio, mentre cerco di trattenere il panico che mi sale in gola. Hansel, dimmi cos'è successo. Si libera dalla presa. Un ladro davanti al tribunale. Non dovevi andartene, capitano. L'aria della notte parla di un crimine consumato. Qualcosa di orribile, impronunciabile. In preda all'ansia, ci addentriamo nelle vie deserte, verso la casa di Adrianson. Nessuno dice niente, non ce n'è bisogno. Ci affrettiamo, inzuppati fin nelle ossa. Lo vedo bussare alla porta, abbracciare forte la moglie e il piccolo figlio. Non c'è gioia in quegli sguardi, sono i gesti di chi condivide una sventura. La donna ci offre un infuso caldo, davanti alla brace che rantola nel camino. È tutto quello che posso darvi. Da quando c'è il razionamento, è difficile procurarsi il latte. Magra, i nervi tesi sul collo, la forza del lutto che la sorregge. Lo sguardo cade sul figlio a ogni frase, come a proteggerlo da un pericolo scuro. Le cose sono così gravi? Il vescovo ha stretto l'assedio. Ogni giorno è più difficile uscire per procurare cibo. E noi dobbiamo fare la fila tutti i giorni per sfamare i nostri bambini. I diaconi addetti al razionamento danno sempre meno. Adrianson è riuscito ad animare il fuoco, come se il riappropriarsi di quei gesti semplici, domestici, potesse alleviare l'incombere della cupezza. Cos'è successo ai campanili, Greta? Mi guarda senza tremare, forte. Non condividi la vigliaccheria degli uomini. Non dovevi andare via, capitano. È quasi un'accusa. Adesso sono io che cerco scampo da quello sguardo. Suo marito è pronto a redarguirla. Non devi prendertela con lui. Ha rischiato la vita per tutti. In Olanda abbiamo procurato denaro, piombo per i cannoni, polvere da sparo. La donna scuote la testa. Non sapete, non avete saputo nulla. Cosa, Greta? Cosa è successo? Adrianson non riesce a trattenere la paura e la rabbia. Parla, moglie. Che ne è stato dei campanili? Annuisce. Quegli occhi duri sono per me. Li ha fatti abbattere. Niente deve innalzarsi a sfidare l'Altissimo. Nessuno deve essere superbo. Dobbiamo guardare in basso quando camminiamo per le strade. Non possiamo portare monili. Vengono requisiti. Ha nominato due bambine e un ragazzino giudici del popolo. Ti strappano di dosso ogni oggetto superfluo, ogni vestito colorato. Tutto l'oro e l'argento finisce nei forzieri di corte. Adrianson le prende le mani. Il tuo anello. Tutto quanto. A maggior gloria di Dio. Respiro profondamente. Devo restare calmo. Cercare di capire. Quale corte, Greta? Di cosa stai parlando? È odio, rabbia profonda quella che pronuncia le parole. Si è fatto re, re di Münster, del popolo eletto. La strozza mi impedisce di parlare, ma lei continua. È stato Düsenschüer, l'orefice, quello zoppo maledetto, insieme a Knipper Dolling. Un'orribile recita. L'hanno lusingato, implorato perché accettasse la corona. Dicevano che Dio aveva parlato loro in sogno, che doveva prendere la corona del padre e guidarci nella terra promessa. E quel lercio saltimbanco lì, a schernirsi, a dire che non era degno. Il maniscalco stringe le spalle alla moglie, protettivo e furente. Lurido maiale puttaniere da 4 soldi! Mormoro. Nessuno l'ha fermato. Dove erano i miei uomini? A Henrik Gräsbeck. Non devi accusarli, capitano. Loro non sono più qui. Scortano i missionari che sono stati inviati a cercare rinforzi. Il re si circonda di uomini armati. Chiunque osa aprire bocca contro di lui viene portato via. Scompare, non si sa dove. In qualche prigione sotterranea, forse. Poi in fondo al canale. Devo chiederlo. Devo sapere. Bernard Rothmann? Il silenzio preannuncia un orrore peggiore, se possibile, di quanto mi aspettavo. È stato nominato teologo di corte. Knipper Dolling, Kippenbrock e Krechting hanno ricevuto il titolo di conti. Il re dice che presto guiderà il popolo eletto attraverso il Mar Rosso degli eserciti nemici e conquisterà tutta la Germania. Ha già assegnato i principati ai suoi fedelissimi. La rabbia e la paura vanno tramutandosi in un peso inerte che mi trascina giù. Sono spossato, ma c'è dell'altro. Lo leggo nell'espressione di ferro, in quella bellezza altera e provata. Rothmann ha detto che si dovevano seguire i costumi dei patriarchi delle scritture. Andate e moltiplicatevi, ha detto, e che ogni uomo prenda quante più mogli riesce a soddisfare, per aumentare il numero degli eletti. Il re ha 15 mogli, tutte poco più che bambine. Rothmann 10, e così gli altri. Se mio marito non fosse tornato entro un mese, anch'io sarei toccata in sorte a uno di loro. Le mani di Adriansson, bianche di tensione, vogliono sbriciolare la mensola del camino. Oh, abbiamo urlato, sì, abbiamo detto che non era giusto. Margarete von Osnabrück ha detto che se il Signore voleva la procreazione, allora anche le donne dovevano poter scegliere più di un marito. Manda giù la compassione con un sospiro trattenuto. Ha sputato in faccia ai predicatori e pisciato in testa a quelli che andavano a prenderla. Sapeva quello che l'aspettava, ma non ha voluto tacere. Ha urlato a tutta la città, mentre la trascinavano via, che le donne di Münster non hanno combattuto al fianco dei loro uomini per diventare volgari concubine. Ancora una pausa, a trattenere le lacrime d'odio. C'è una dignità infinita in quelle parole, la dignità di chi ha condiviso il gesto estremo di un fratello, di una sorella. È morta uccidendoli con le parole. L'hanno seguita in tante, hanno preferito morire insultando i tiranni piuttosto che accettare le loro leggi. Elisabeth Hölschner, che ha osato abbandonare il marito, Katharina Knöckenberg, che ha vissuto con 2 uomini sotto lo stesso tetto, Barbara Büttensdieck, denunciata dal marito perché ha osato contraddirlo. Lei non l'hanno giustiziata, no, era incinta, per quello che si è salvata. Soltanto il crepitare del fuoco, il respiro profondo del piccolo Hans nel lettino, il battere della pioggia sul tetto. Nessuno si è ribellato? Annuisce. Il fabbro Müllenheke, insieme ad altri 200, sono riusciti a rinchiudere il re e il suo seguito nel municipio, ma poi cosa potevano fare? Aprire le porte al vescovo? Significava condannare la città a morte. Non se la sono sentita. Qualcuno ha liberato il re e dopo 2 ore le loro teste sono rotolate nella piazza. Peter Adriansson raccoglie la vecchia spada con cui ha combattuto sulle barricate a febbraio. Sulla faccia i solchi della stanchezza scacciata. Fammelo ammazzare, capitano! Mi alzo. Quello che resta da fare. No, tua moglie e tuo figlio non saprebbero che farsene di un martire. Deve pagarla! Mi rivolgo a Greta. Raccoglie la vostra roba. Ve ne andate stanotte. Adriansson stringe Elsa, accecato. Ci ha fottuti, non può passarla liscia. Porta i tuoi lontano da qui. È il mio ultimo ordine, Peter. Vorrebbe piangere. Si guarda intorno. La casa, gli oggetti, me. Capitano! Greta è pronta. il figlio in braccio, avvolto in una coperta. Vorrei che Adrianson avesse la sua forza in questo momento. Andiamo! Lo trascino per un braccio. Usciamo sotto il diluvio, faccio strada. Rasentiamo i muri lungo il percorso che sembra interminabile. A una svolta, la moglie di Adrianson trasalisce. Distinto la mano alla spada. Due sagome basse sotto i cappucci. Una regge una lanterna. Si avvicinano, passi corti nel fango. La luce viene alzata verso i nostri volti. Intravedo occhi giovani, guance lisce, non più di 10 anni. Un brivido. La bambina punta l'indice sul fagotto che Greta tiene stretta al seno. Un dito piccolo e bianco. Errore negli occhi della donna. Scosta il lembo della coperta e mostra Hans, intirizzito dal freddo. L'altra non mi toglie lo sguardo dalla faccia. Occhi azzurri, ciocche bionde che grondano pioggia. L'indifferenza altera di una fata, puro orrore. L'istinto di schiacciarla, di uccidere, il cuore a tamburo. Passano oltre. Alla Lüdgerator. Hanno scaricato i nostri carri. Gli animali sono stati riparati sotto una tettoia. Alto là! Chi siete? Capitano Gert dal Pozzo. Mi avvicino, in modo che possa riconoscermi. Hansel, il volto spettrale della fame. Gli attacca i cavalli a uno dei carri. Incerto. Capitano, mi dispiace, non può uscire nessuno. Indico il fagotto che Greta stringe al seno. Il piccolo ha il colera. Vuoi far scoppiare un'epidemia? Terrorizzato, corre a chiamare i compagni. I cavalli vengono riattaccati. Aprite la porta, svelti! Spingo Adrianson sul carro, cacciandogli le redini in mano. Fila, più lontano che puoi! Le sue lacrime si mescolano alla pioggia che gronda dal cappuccio. Capitano, io non ti lascio qui. Gli stringo forte l'orlo del mantello. Non rinnegare mai a te stesso ciò per cui hai combattuto, Peter. La sconfitta non rende ingiusta una causa. Ricordalo sempre. Vai adesso. Colpisco forte il culo del cavallo. Non sento più la pioggia. Il fiato mi precede sulla strada che porta alla piazza della cattedrale. Nessuno. Come se fossero tutti morti. Un unico, muto cimitero. Il palco è ancora a ridosso della chiesa, ma adesso ci campeggia un pesante baldacchino che copre il trono. Sotto è inciso, a chiare lettere, il nome del luogo in cui le menti di questa gente hanno deciso di migrare, il Monte di Sion. Passo oltre, finché il rumore e la luce della festa mi raggiungono dall'alto, dalle finestre della casa che fu del signore Melchior van Buren. Ho trovato la corte del re giullare. Ha la corona in capo, al mantello di velluto, allo scettro in mano. Una sfera sormontata da una croce e due spade gli pende dal collo. Ha un anello per ogni dito, la barba curata in ogni riccio, le gote arrossate, innaturali, come un cadavere imbellettato. Siede al centro della tavolata, sistemata a ferro di cavallo, ingombra di mucchi d'ossa spolpate, ciotole colme di grasso d'oca, bicchieri e boccali con resti di vino e di birra. La ghigna immobile di un maialino allo spiedo campeggia in mezzo alla sala. Alla destra del re, la regina Divara, vestita di bianco, più bella di quanto potessi ricordarla, una ghirlanda di spighe a fermarle i capelli. Alla sinistra, un piccoletto rincagnato, sicuramente il famoso Düsenschuh. Le mogli siedono accanto ai cortigiani e servono il vino ai loro signori e padroni. In fondo alla sala, sul trono di Davide, un ragazzino siede scomposto, le gambe a cavalcioni dei braccioli. Giocherella annoiato con una moneta. L'abito troppo grande è ricoperto di monili d'oro, le maniche arrotolate sui gomiti. Riesco a malapena a riconoscere Seriasub, il prediletto di Bokelson, strappato al destino dei vecchi credenti in un giorno d'inverno. Il re si alza, puntando le mani sul tavolo. Sporge la testa in cerca di sguardi da incrociare. Inquietudine tra i commensali, occhi bassi. Crechting! Il ministro sobbalza. Tutti gli altri respirano, il re incalza. Per il Ducato di Sassonia, Crechting! Imitando marcatamente un accento villico. Ora perché gridi così forte? Non c'è forse nelle tue mura alcun re? I tuoi consiglieri sono forse periti perché ti prendono i dolori come di partoriente? Spasima e gemi, figlia di Sion, come una partoriente, perché presto uscirai dalla città e dimorerai per la campagna e andrai fino a Babilonia. Là sarai liberata. Là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Chi sono? Chi sono? Krechting arrossisce, fissando il cosciotto spolpato che ha sotto il naso. Dà di gomito al vicino, a caccia di un suggerimento. Il re, rammaricato. Basta, non lo sai! Lo sguardo scruta la tavolata. Knipper Dolling, per l'elettorato di Magonza! Con la punta dello scettro fa tintinnare la brocca. Poi la manda in pezzi con un colpo secco. L'acqua si rovescia sul tavolo. Il signore è in mezzo a noi, sì o no? Il borgomastro si affretta a rispondere. Sì, sì, no, devi dirmi chi sono, chi sono? Avvolto in una palandrana di broccato, probabilmente ricavata dalla tappezzeria di casa Van Buren, Knipper Dolling si arriccia nervosamente la barba. La pancia poderosa di un tempo ora cade flaccida, insieme alla pappagorgia. Il cappellaccio nero casca moscio sui lati, come le orecchie di un bracco. Lo sguardo spento, da cane bastonato. Un vecchio animale rammollito e stanco. Prova a illuminarsi con una risposta. Isaia? Ma no! È nervoso, scavalca il tavolo. Palk, per la Geldre a Utrecht! Si avventa sulla testa del maialino e ingaggia una lotta disperata con tanto di ruggiti e urla finché non la squarcia in due. Lascia cadere i brandelli e si gira di scatto. Chi sono? Chi sono? Il diacono è visibilmente sbronzo. Riesce a barcollare sul posto e deve appoggiarsi al tavolo. Un sorriso di compiacimento. Sì, sì, facile questa. Simeone! Risposta sbagliata, imbecille! Raccoglie una ciotola di maiale e gliela tira. Sospira profondamente e si gira verso Rothman, quasi nascosto in fondo alla tavolata. Bernard? Un vecchio corpo smunto, chiuso nella veste sudicia, la morte dipinta sulla faccia, gli occhi piccolissimi. Sembrano passati anni da quando un affabile predicatore accolse i discepoli di Mattis a Münster e altrettanti da che il convento di Huberwasser fu svuotato dalle sue parole. Michea, Mosè e Sansone. Il re applaude, subito seguito da tutti gli altri. Bene, bene. E ora divara, mia regina. Facci Salomè. Dai, Salomè, dai, dai. Musica, musica. Divara sale sul tavolo e comincia a roteare e muoversi sinuosa al suono del liuto e del flauto. Il vestito scivola sulle spalle, le gambe si scoprono. Frusta l'aria coi capelli e si unisce le mani sopra la testa, la schiena inarcata. La danza di Salomè per avere la testa di Giovanni. Di Jan Bokelson, sarto e pappone di Leida, commediante, apostolo di Mattis, profeta e re di Münster. Di Jan e di tutti gli altri. Una catasta di cadaveri, lei lo sa. Guardo la morte danzare, sceglierli a uno, finché non decido di uscire dall'ombra e lasciare che si accorgano di me. È la prima a fermarsi, di scatto, come avesse visto un fantasma. I commensali, di pietra, bocche aperte, a guardarmi redivivo, a vedersi per un istante attraverso i miei occhi, bolsi, folli, maledettissimi stronzi. E ancora lei mi concede un sorriso lieve, come se fossimo soltanto noi due. Portateli via, tutti quanti.